La nebbia gli irti colli piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'asprodor dei vini, l'anime a rallegrar. Gira sui ceppi accesi lo spiedo scoppiettando. Sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar. Tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri, nel vespero migrar. Yeah! Buonasera, siamo alla quarta puntata della nuova stagione di Clandestino, Ciccio, finalmente, dopo un po' di problemi che abbiamo avuto stasera. Sì, infatti riscusiamo tanto con i nostri ascoltatori, sempre l'ora di ritardo, la mezz'oretta, però... La canonica. Siamo sempre presenti, Peppe, sì, in questo San Martino dell'11 novembre 2023. Nel 2013, 23 e 15 volevo dire un po' di ritardo, ma non mai in ritardo per la buona musica. Salutando subito un amico di Petilia Policastro, Gaetano. Che andiamo. Non è il nostro amico Gaetano. Gaetano è il nostro amico. No, dico, non è Gaetano. È sempre il nostro amico. Musica. Andiamo con la musica, Ciccio. Si parte con un pezzo dei Led Zeppelin. Zeppelin, sì, un pezzo tranquillo tratto da Psychal Graffiti Disc 2. Fisica. Glielo dedichiamo a Rino anche? Glielo dedichiamo? No, a Rino no. Scicchitano. Ad Antonio il gemello, il nostro amico. Infatti. Sempre per la magia della musica. Che pezzo questo qui delle Zeppelin. Sempre per la magia della musica, sempre, Peppo. Ricordando che cioè, i punti di vista sono molto importanti. Certo, ricordiamo che Lorenzo Blues c'è un blues allucinante. No, vabbè, Peppe, finalmente è arrivato il giusto tempo per il buon vino. Noi ne stiamo degustando un bicchiere, direi, eccezionale. E diciamo che non è stata la causa del nostro ritardo questo vino, Ciccio, come no. Molti penseranno. No. Infatti il ritardo è dato... Dal tuo PC. Dagli open source in generale. No, diciamo dal tuo PC che c'ha una scheda audio un pochettino simpatica. A non pagare, per farsi le cose da soli. Arriva l'applauso dal server, del ragazzo del server. Il ragazzo del server. Si hanno delle conseguenze, però conseguenze che portano anche a una bella serata. E... No, vabbè, diciamo, manca tanto Leonardo e Salvo, che esatto, ci salutiamo manca... tantissimo. Salutiamo la confraternita di la confraternita San Giovanni in Fiore, costretti questa sera a Clandestino Cid a esiliarsi nuovamente come la prima serata. Per effetti che spiegheremo. C'è stato l'esilio, Ciccio. L'esilio, l'ennesimo. L'esilio. Che vogliamo denunciare ai nostri ascoltatori perché Clandestino vuole restare nella propria sede. Ma invece no, Clandestino vuole andare in giro, Ciccio. Clandestino è sempre in giro. Se no non sarebbe Clandestino. Certo. Andiamo avanti con la musica questa sera, il meglio della musica direttamente al Monterey Pop Festival 67. Ma noi stiamo all'Inghilterra. Quasi. Vi proponiamo un pezzo dei Mamas and Papas. Make your whole kid of music. Nobody can tell you there's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up. Gran pezzo, grandissimo pezzo, Ciccio, tu c'eri. Molto solari, che dedichiamo al nostro amico Gian Giorgio. Tu c'eri a Monterey? No, non c'era nemmeno Gian Giorgio, che è morto, Peppe, purtroppo lo vogliamo ricordare. Quando, il cane più grande del mondo, aveva solo 8 anni, il cane più grande del mondo, Gian Giorgio, è morto a 8 anni, lasciando la famiglia che lo aveva adottato del dolore. Niente, il cane è entrato nel Guinness dei primati come... il cane più grande del mondo, come lo sfondo più alto del mondo, sì. Con lo sfondo più alto del mondo, con un'altezza di 109 centimetri. Ah, ma più grande nel senso di lunghezza, di Algarrese, Peppe, come ti prende, come ti piace a te Algarrese? Cos'è Algarrese? Algarrese è una tecnica di galoppo, Peppe, di monta. Vorremmo entrare nella Ciccio. Precisione. Comunque, Peppe, niente. Questa... E volevo salutare Andrea, che non si è persa stavolta. No, questa volta no, c'è, è viva. E lotta insieme a noi. Ok, Peppe, avanti con la musica, Ancora musica, Ciccio, musica, solo musica. Musica su musica, questa sera presentiamo questo... bellissimo pezzo che dedichiamo al nostro carissimo amico, che sicuramente non ci starà ascoltando, ma molti capiranno. Esatto, a lui. A lui. Il maestro. Introduciamolo. Begging you, put your loving hand out, darling. seek, you let me know. But I've had enough seat, just let me go. I'm on my knees while I'm hanging, cause I don't wanna lose. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, that I'm begging. Clandestino Cid, siamo arrivati al momento della nostra intervista con l'artista. Questa sera un personaggio del tutto nuovo, anche perché ci parlerà un po' del suo percorso artistico, un po' delle sue avventure, e non svelando altro, sveliamo soltanto il suo nome. Buonasera, Biagio Accardi. Buonasera. Allora, Biagio, ti ringraziamo per essere presente in questa puntata di Clandestino Cid, sempre in onda su Fuori Onda Radio. E niente, presentiamo subito, andiamo alle presentazioni. Sì, innanzitutto ringrazio voi per avermi invitato e per averci dato l'opportunità a me e alla mia associazione di poter fare questa presentazione tutto tondo di Viaggio Lento, che passa appunto dalla mostra fotografica alla performance artistica alla presentazione del libro. Sì, io ho iniziato a fare una ricerca e a suonare musica tradizionale, dopodiché velocemente sono approdato alla figura del cantastorie. E proprio studiando e ricercando questa figura, leggendo un libro di Mauro Geraci, leggo le gesta di questo cantastorie degli anni 40 di nome Orazio Strano, che partiva con il proprio asinello dalla Sicilia e attraversava la Calabria, si spingeva fino alle Puglie. Bene, questa visione romantica di questo personaggio, che tra l'altro sta per scomparire, mi ha ispirato poi quello che è Viaggio Lento. La figura è proprio del cantastorie, quindi proprio, non lo so, realizzando e vedendo il mondo come un grande palcoscenico, scegli questa figura del cantastorie. Come vive il cantastorie? Ma diciamo che adesso fare il cantastorie è un'operazione anche azzardata, perché dobbiamo pensare che con l'avvento della tecnologia, dei mass media soprattutto... Come ogni puntata di Clandestino Cid, siamo arrivati al momento della nostra intervista con l'artista. Questa sera un personaggio del tutto nuovo, anche perché ci parlerà un po' del suo percorso artistico, un po' delle sue avventure... E non svelando altro, sveliamo soltanto il suo nome. Buonasera, Biagio Accardi. Buonasera. Allora, Biagio, ti ringraziamo per essere presente in questa puntata di Clandestino Cid, sempre in onda su Fuori Onda Radio. E niente, presentiamo subito, andiamo alle presentazioni. Sì, innanzitutto ringrazio voi per avermi invitato e per averci dato l'opportunità a me e alla mia associazione di poter... E fare questa presentazione tutto tondo di Viaggio Lento, che va appunto dalla mostra fotografica alla performance artistica alla presentazione del libro. Ho iniziato a fare una ricerca e a suonare musica tradizionale. Dopodiché, velocemente sono approdato alla figura del cantastorie e proprio la figura, leggendo un libro di Mauro Geraldi, leggendo di questo cantastorie degli anni 40 di nome Orazio Strano, che partiva con il proprio asinello dalla Sicilia e attraversava la Calabria, si spingeva fino alle Puglie. Bene, questa visione romantica di questo personaggio, che tra l'altro sta per scomparire, mi ha ispirato poi quello che è Viaggio Lento. La figura è proprio del cantastorie, quindi proprio, non lo so, realizzando e vedendo il mondo come un grande palcoscenico, scegli questa figura. Del cantastorie, come vive il cantastorie? Ma diciamo che adesso fare il cantastorie è un'operazione anche azzardata, perché dobbiamo pensare che con l'avvento della tecnologia, dei mass media soprattutto, il cantastorie stava per scomparire. E il cantastorie nelle piazze non aveva più senso, piazze gremite comunque di motorini, di macchine che passavano, di automobili che passavano, quindi tutti questi elementi hanno contribuito a fare in modo che la figura del cantastorie non avesse più valenza. Ma da un certo punto in poi, credo, soprattutto attraverso l'operazione Viaggio Lento, sta riscattandosi perché c'ha ancora spazio, c'ha ancora cose da dire, soprattutto se si va ad innestare in un discorso più ampio, come lo è appunto Viaggio Lento, che apparentemente può sembrare una semplice passeggiata nel Parco Nazionale del Pollino in compagnia di questo adorabile animale che è l'asina di nome Cometa Libera per noi Cometina, ma in realtà vuole recuperare la figura del cantastorie, proporre un nuovo modello di turismo in altre regioni tipo l'Umbria e l'Abruzzo. Possiamo trovare questa pratica che ha il nome di trekking sommeggiato oppure ono trekking, da ono asino. Quindi un nuovo modo di fare turismo, non il nostro classico turismo di massa che viene qua, pretende le stesse cose che ha nella quotidianità, ma un turismo attento che vuole conoscere il territorio e le sue tradizioni passo dopo passo, con una modalità molto più lenta. Ad assaporare quasi il tutto, e qui proprio ritroviamo questo concetto nel tuo progetto Viaggio Lento. Viaggio Lento che spinge Biagio andare in giro per questi paesi del Pollino, per i boschi, per cantare le proprie strofe, diciamo. Con Viaggio Lento, qual è stato l'impatto con il pubblico, cioè la modalità del viaggio stesso? Ma allora, questo progetto ha 3 anni di vita, siamo al 3º anno, in genere dura un periodo di 1 mese, e il 1º anno è stato un viaggio così, un po' all'avventura, un po' solitario. Poi man mano con le altre 2 edizioni si sono aggregate persone e tuttora c'è un gruppo di 10 persone. Però la modalità del rapporto con il contesto dove passa Viaggio Lento è molto particolare, perché innanzitutto non irrompe e arriva in silenzio in un paese, quindi le persone che si affacciano da una finestra e si ritrovano questa scena rimangono colpite, incuriosite, chiedono cosa fai, cosa non fai. I bambini si divertono a tirare le orecchie, la coda, e lo trovano come un gioco e soprattutto un qualcosa di mai visto. Gli anziani si perdono nei ricordi, perché l'animale e l'asino è stato sempre compagno dell'uomo in tutte le sue vicissitudini. E quindi alla domanda dove stai andando con quest'asino, e la risposta è che sto andando in piazza a fare lo spettacolo. E quindi poi io dico sempre che è un veicolo pubblicitario molto forte, tant'è che in piazza poi mi ritrovo tutti, dai bambini agli anziani, e quindi di conseguenza lo spettacolo poi la prende vita, prende forma. È uno spettacolo particolare perché va a toccare anche un argomento che ci appartiene da quando l'uomo esiste sulla faccia della terra, ovvero parla della musica, dei suoni, della musica che accompagnava l'uomo in tutte le sue vicissitudini, scandiva proprio il tempo dell'uomo. La ninna nanna serviva ad addormentare un bambino, e la serenata serviva a dichiararsi alla propria bella. Si lavorava nei campi per lenire la fatica oppure per protestare contro i padroni di turno o i dominatori di turno. Insomma, vuol sottolineare questo aspetto della musica, insomma, canto e cunto, questo spettacolo che per l'appunto porto nei borghi del Parco Nazionale del Pollino. Benissimo, quindi diciamo molto partecipata, quasi una cosa particolare, ma come diceva ben Viaggio, dall'altra parte il ricordo che porta quasi un viaggio, un feedback, no? Sì, porta un po' indietro nel tempo. Poi naturalmente il progresso ha portato anche un po' un pregiudizio, quindi di conseguenza c'è chi reagisce in questo modo incuriosito, ma c'è chi anche, insomma, la vede come un tornare al passato. Il passato non serve, perché la terra è sporca, paradossalmente, invece la terra è da dove, certo, noi traiamo il nostro sostentamento, il cibo. Io dico sempre questa cosa, che ci sono delle persone che addirittura sono così distratte che incontro per strada, spesso loro sono con le automobili e io appunto a piedi, e sono così distratte da non vedere quasi l'asino, neanche se sta al centro della strada. Quindi no, c'è questa cosa, questo duplice aspetto certo, è un aspetto, forse una voragine della società comunque, che ormai non si perde, cioè si perde in tutto e non sa apprezzare nemmeno il tutto, perché sembra quasi scontato. Sì, per l'appunto, allora, dicevamo che Viaggio Lento è un contenitore di cose. Prima ho parlato dell'aspetto turistico, ma vuol fare anche una mappatura del territorio e delle realtà genuine, ma soprattutto vuol dare un messaggio, e il messaggio è proprio questo qua, quello di rallentare, perché questo progresso così sfrenato non si sa dove ci sta portando. A me piace dire rallentare, non fosse altro per osservare quello che ci accade attorno. Prendersi, cioè, prendere coscienza di quello che ci attraversa, di quello che attraversiamo, giustamente. Sì, camminare a piedi ha un altro proprio un altro impatto con il territorio, un altro contatto con il territorio. Questo paradossale che a volte, cioè, appunto, si perde di vista questo, proprio nella passeggiata stessa, pensare a, a passeggiare, quindi godersi il tutto. A volte invece si è proprio distratti, si passeggia e si pensa a quello che si deve fare fra un'ora, fra due, fra tre. No, ma camminare aiuta a pensare, tanto è vero, io non dico niente di nuovo, Aristotele camminava facendo filosofia, cioè, in Grecia addirittura gli assegnarono un pezzo di terra dove poi nacque il Tempio di Apollo, e lui là camminava insieme ai suoi adepti e filosofeggiando. Quindi camminare ha sempre portato l'uomo ad avere pensieri alti, diciamo, in questo modo. Bene, Biagio, noi ci teniamo a ricordare l'appuntamento della settimana, quello che di martedì, di domani, alle ore 18, qui in aula P2 occupata. Cosa si farà? Allora, la mostra è allestita da oggi, quindi per due giorni, fino a che non ci sarà l'evento, chiunque può venire a sbirciare la mostra fotografica di Viaggio Lento. Poi dopo ci sarà la presentazione del mio libro, Canto e Cunto, tratto dal mio spettacolo, una piccola performance tratta dal libro e quindi dal mio spettacolo, e poi una proiezione del video documentario realizzato dal regista Fabio Rao su Viaggio Lento. Viaggio, appunto, aveva portato delle tracce audio per presentare il suo, cioè, che sono all'interno del suo... Sì, sì, sono... infatti dimenticavamo prima di dire che nel libro c'è allegato un CD con 12 tracce riarrangiate da un'orchestrina di 8 elementi. E appunto sia il libro che il CD ripercorre la vita dell'uomo cadenzandola a tempo di musica. E quindi nell'infanzia ci sono i racconti, le fiabe, che sono i primi elementi di inculturazione di un bambino, almeno un tempo era così. Questa è una fiaba, tra l'altro, che arriva a noi attraverso la dominazione normanna, molto probabilmente, perché ha quegli elementi come le fate, i folletti, i draghi, dove ci sono tutti questi personaggi. Sono fiabe che arrivano a noi tramite l'invasione celta, insomma. E si intitola La penna dell'uccello grifone. Tra l'altro c'è anche un pezzo recitato all'inizio, prima del brano suonato. Ok, noi lo proponiamo ai nostri ascoltatori, questo Bio Giaccardi, La penna dell'uccello grifone. C'era una volta un re che perse la vista, chiamò attorno a sé i suoi tre figli e disse loro: andate e cercate la penna dell'uccello grifone per fare in modo che a me ritorni la vista. I tre si incamminarono e attraversarono monti, mari, oceani, finché il più giovane trovò la penna dell'uccello grifone. Ma i fratelli, presi dalla gelosia, gli tolsero di forza la penna, lo uccisero e lo sotterrarono in un bosco. Passarono giorni, mesi, anni, finché un pastorello trovò l'osso della gamba del principe assassinato e ci fece uno zufolo che portò in dono al re. Ma quando andò per suonarlo, dallo zufolo, invece di suoni, uscirono parole. Thank you. Una bellissima storia, è proprio sia il testo sia musicalmente, cioè guardavamo lo striscione, cioè il disegno di Viaggio Lento, che vogliamo ricordare di chi è? Sì, quello praticamente è un'opera di Nico Zazzo, che è un creativo, un art designer, si può dire così. Che un giorno se ne è venuto con quest'idea, che io inizialmente non ho capito molto bene, e che mi ha detto: no, dobbiamo fare una cartina del percorso di Viaggio Lento in 3D, però fatta a mano. E in effetti poi venne a questa fiera del turismo, che dove noi siamo stati a presentare Viaggio Lento, con uno striscione bianco, e lui col pennarello si fece proprio tutta a mano tutto il percorso con le montagne, insomma, in 3D. Bello. Poi è stato stampato, e adesso abbiamo creato questo striscione che portiamo con noi, inoltre anche nel nostro notiziario che facciamo uscire ogni 6 mesi. È un notiziario che porta il nome della nostra associazione Cattivo Teatro, per l'appunto. Benissimo. Va bene, Viaggio, per sembra di essere arrivata alla fine di questo quest'altro viaggio. Sì, sì. Vabbè, lasciamo con un altro brano. Certo, il prossimo brano che è? Che si intitola Umetiture. Come dicevamo, la musica scandiva il ritmo quotidiano dell'uomo. E questo è un brano che è contestualizzato nei lavori dei campi. Durante i lavori dei campi le persone cantavano per lenire la fatica, dicevamo prima, ma questo in particolar modo è anche un canto di protesta. Un canto di protesta, e c'è da sottolineare anche la valenza del dialetto, perché il dialetto diventava un codice criptato, incomprensibile ai dominatori di turno. E in questo caso abbiamo un brano dal titolo Umetiture, ovvero il mietitore, che in un suo verso potremmo ascoltare: padrone, vai a prendere la borsa, perché se non mi paghi tu, mi pago da solo. una bellissima frase per salutare il nostro ospite. È stato veramente un piacere averti qui su Clandestino Cid. Saluta anche la piccola Cometina, Sarà fatto. Dando appuntamento appunto a martedì 12 novembre. Vogliamo ricordare il 12 novembre, ma... 12 novembre, mostra fotografica di Viaggio Lento, presentazione del libro Canta e Cundo, tratto dal mio spettacolo, quindi un piccolo omaggio tratto sempre dal, dallo spettacolo che porto in giro durante il percorso nei paesini dei borghi antichi del Parco Nazionale del Pollino, e video documentario regia di Fabio Leb. Fabio Rao, sempre Viaggio Lento. Sempre qui in aula occupata P2, in occasione del lancio del gas gruppo d'acquisto solidale Unical. Ok, noi vi lasciamo al Ume Titura, augurando il meglio Viaggio. Ok, un saluto a tutti. Grazie. Bella Biagio, bella Peppe, ma ancora vorrei sapere, vabbè, le tue considerazioni sulla musica. Tanto per iniziare, ricordiamo martedì 12 novembre, aula P2 occupata, cubo 40C, giornata di promozione del gruppo di acquisto solidale Unica, dalle ore 18 distribuzione settimanale degli ordini, ore 19 presentazione del gas gruppo acquisto Unical solidale. rete di economia solitale, utopie sorridenti. Solidale. Solidale, utopie sorridente, presenzione, libro CD, viaggio lento. Cant Kunte Mini Frico, viaggio a card, seguire, cena sociale con i prodotti del gas, jam session libera di musica tipo popolare, del tipo Hachimurota. Hachimurota, sì. Ciccio, ma mi hai fregato il microfono. Scusa Peppe, so che il tuo gelato è qualcosa che ti appartiene, cioè è parte di te stesso, però possiamo cambiarlo se vuoi. No, no, giusto per le equalizzazioni, Ciccio. Perché mo la mia voce è diversa dalla tua, quindi ci abbiamo meno blues. Ok, così va bene. E iniziamo, continuiamo con la nostra trasmissione. Ciccio, vai con la prima news. La prima news di stasera ci arriva direttamente dal... Ci arriva direttamente da un paesino, Dixon, in Illinois. Praticamente i satelliti non smettono simpatici mai... Simpatici satelliti. Che non smettono mai di stupire, caro Peppe. Infatti quello che da Google Maps arriva come una forma più che fallacia... Non è altro che una chiesa. Ma fallace in che senso, Ciccio? Un fallace in senso fallace, in senso niente, rappresentato proprio il pene, parte integrante dello scroto. Si tratta della chiesa dei cristiani scientisti, fondata nel 1903. Qui si seguono gli insegnamenti di Gesù e i testi di Mary Baker Eddy, che elabora la dottrina scientista. C'è una chiesa del cazzo. Una chiesa del cazzo, praticamente sì, Peppe. Tanto per restare nel tema della forma. E in quel senso, dicevo io. E tanto per restare su questo tema, arrivò un messaggio, una news, ANSA, direttamente dagli Stati Uniti, da Los Angeles, che è quella che è pornatori, maschera obbligatoria per evitare marchi di sperma. Per le donne o per gli uomini? Per le donne, infatti, no. Cosa succede? Sesso solo con il preservativo, divieto di eculare sui genitali, sulla bocca o sugli occhi, occhiali protettivi per i casi di contagio di HIV tra gli attori, Peppe. Vabbè, in realtà i condom sono già obbligatori nei rapporti sessuali anche orali nei film porno, solo che non vengono usati quasi mai. Dove andremo a finire, Peppe? Non lo so, Cicci. Un amante come te dei gelati e del porno, cosa ha da dire, Peppe? No, vabbè, Cicci, un amante come me dei gelati e del porno, diciamo... Vabbè, avrei visto sicuramente un film porno nella tua vita, Peppe. Tutti i giorni, guarda. Vabbè, può dare tutti i giorni, sono fatti tuoi, però. Li guardo la mattina, appena sveglio, la per sera prendo, a dormire. Questo è un periodo che stai passando a casa, eh? Esatto. Quando vuoi tu stare te ne un vai... Solo? Sì, infatti. Io mi guardo il porno, Ciccio. Però, Peppe, la cosa che stupisce è che ci rivela la... La rubrica salute di Leggo è quella proprio che al mattino, al risveglio, meglio il caffè del sesso e anche, non lo so, del... Dipende con chi abiti. Se abito con te è normale che meglio il caffè che il sesso, Ciccio. Vabbè, non è che cioè devi fare sesso con me, però... Chiodi. Voglio dire, sei libero di invitare chi vuoi. No, vabbè, però se vuoi. Abitassi con... con? Dai, facciamo un nome, uno dei tanti. Non lo so, con almeno una persona di sesso femminile, Ciccio. Ah, omofobo quindi. Esatto. Ti stai riferendo. Sono un po' omofobo. Ok. Nei tuoi confronti. Benissimo. Direi di passare alla musica, esatto. Peppe. Detta la tua omofobia. Bella pagina, diciamo, di tolleranza e blues. Vorrei dedicare un pezzo a qualcuno, Ciccio. Prego, Peppe. No, a nessuno. Non lo a nessuno, ok. Volevo mandare un pezzo di Syd Barrett. Addirittura, Peppe. Syd Barrett. Allegria. No, vabbè, un bel pezzo. Ok. Io, a me piace molto il fondatore dei Pink Floyd, Ciccio. Cioè. Il primo cantante chitarrista dei Pink Floyd, che diciamo che fece sul primo album, con loro, e poi come si dice quando disertò, esatto. Bravo, mi hai letto nella mente. Negli occhi, te lo leggo negli occhi. Ce l'ho scritto, però non riesco a leggerlo. Mandiamo un pezzo che si chiama Love Song. Love Song di Syd Barrett nel suo album del 1970, The Madland Cups. Che cappella io matto. I knew a girl and I like her still. She said she knew she would trust me, and I her will. I said, okay, baby, tell me what you be, and I'll lay my head down and see what I see. By the time she was back, by her open eyes, I knew that I was in for a big surprise. Quanto mi piace a me Syd Barrett. Che bella canzone d'amore, Peppe. Syd Barrett per me è un genio. Poi vabbè, diciamo, vai. Sarà considerato un pazzo da tutti. Un tipo da tutti? Facciamo un nome. Cominciamo a fare i nomi, Peppe. Valterino. Perché tutti questi pezzi sulla lingua. Valterino, per esempio. Valterino? Cosa pensa, quindi? Valterino pensa che Syd Barrett è un pazzo drogato. Vabbè, certo, è lui comune. Come cominciamo a fare i nomi di chi ci mette la faccia e protesta, esatto, contro la polizia? Questa volta si inchioda lo scroto, Peppe, sulla piazza rossa di Mosca. Ed è proprio lui, Piotr Pavlevsky, di 29 anni, non nuova forma eclatanti di protesta. Niente, questa volta per l'artista l'esibizione è finita con un arresto e ricoveri immediati in ospedale. In ospedale, perché appunto nella piazza rossa si è inchiodato lo scroto a terra con un chiodo lungo una ventina di centimetri, piccolino, Peppe. Vabbè, dipende quanto è grande lo scroto, sì. Ah, c'è il video, se voi lo guardiamo insieme, sicuro? Se qualcuno lo richiede lo possiamo mettere sulla nostra pagina comunque per farlo vedere a tutti. Un pennello grande. Vabbè, se sei interessato così tanto allo scroto te lo facciamo vedere, Peppe. Comunque, volevo ricordarle che nel 2011 sempre il nostro Pavlevsky si cucì la bocca con un ago e filo, mentre qualche mese fa, per protestare contro l'incriminazione delle Pussy Riot, avvolse il suo colpo nel filo spinato. Diciamo, un tipo abbastanza tranquillo, Peppe. Il nostro amico Piotr, che si traduce in Pietro, quindi salutiamo il nostro amico Pietro. È brutto, è bruttissimo Pietro. Il nostro brutto amico Pietro che ci saluta da... non so dov'è, sarà la meteo. Boh. Peppe... Ti manca te Pietro, Ciccio? Pietro... sì. Se ci manchi, dire. Pietro. No, vorrei ringraziare nuovamente Biagio Accardi per le mele scacciatelle che ci portò in aula e che sto degustando, ancora ne avevo portato due o tre a casa. Bravo Ciccio, tu te le mangi a mia insaputa. No, sono dietro di te, con un bel bicchiere di vino ci stanno tutte, biologiche sempre, come biologica sarà la giornata di domani del gas. Esatto, ricordiamo domani la giornata del gas. Ore 18, aula P2 occupato, a cubo 40... Ponte Carrabile unica sbarra in ingegneria vicino alle poste per... l'aula P2 che diciamo che dopo 5 anni di occupazione è abbastanza rinomata, Ciccio. Infatti l'altro giorno non siamo andati in onda quando la settimana scorsa, guarda caso, perché era il compleanno dell'aula. Sveliamo gli altarini. Esatto. Peppe, alla fine dai. Manca, è come dire, non lo so, le ultime recensioni che le donne con il sedere grande sono più sane e intelligenti rispetto alle altre. Quindi perché non dire che il 4 è stato il compleanno? Esatto. Ricordiamo che 5 anni fa alcune personaggi che ancora la vivono, salutiamo tutti loro che ogni giorno vivono questo posto splendido, occupato e che condiviso con tutti gli studenti, hanno deciso di... dopo un'assemblea di facoltà, della facoltà di ingegneria in aula A, hanno deciso di lasciare la presidenza in ingegneria e di trasferirsi in aula P2 per occupare proprio l'aula P2, perché è stato un segno occupare la P2, che è lo stesso della massoneria. Occupiamo la P2. Abbiamo già massonica P2. Esatto, è stato, diciamo, un gesto simbolico che tanta gente... ha fatto. Ma il signor Leggio in aula P2 chi è? Il signor? Leggio? Io non leggo, Ciccio, tu leggi? Io leggo. Comunque, diciamo a Tonino, il nostro amico che ci ascolta da Pisa, Trieste o Amantea. Licio! Licio Gelli, Ciccio. Tu già non leggio, più conosciuto come Ligio. No, stiamo parlando di Licio Gelli, Ciccio. Stai parlando? Di Luciano Leggio. E chi è Luciano Leggio, Ciccio? Che c'entra? È un criminale italiano legato a Cosa Nostra. Ah, vabbè, che cazzo c'entra con... quello è Licio Gelli, Ciccio, quello che parli tu. Mi costa la P2. No, c'è infrascato pure lui. Pure lui, Luciano, sì. Leggio con Licio Gelli. Vabbè, comunque, volevo ricordare a Tonino, salutiamolo, che sulla nostra pagina... Bella di... Tonino! Vai sulla pagina dell'evento di Clandestino che lì troverai la locandina per domani. Sveglia, Tonino, ti ho anche invitato! Dai, cazzo, dai, Tonino! Dai, Tonino! Ok, Beppe, andiamo avanti con la musica. Continuiamo con un musica, pezzo... Musica. E il prossimo pezzo è dei Fleet World, un bellissimo pezzo reggae. Che praticamente cosa ti dice? Non lo so, Ciccio, che mi dice. Ascolta. Pezzo reggae. Sentiamolo prima. 96 degrees in the shade. Rehot in the shade. 96 degrees in the shade, real hot, oh yes, in the shade. Said it was 96 degrees. Thank you. Che reggae, direi, non che blues in questo caso. È una bellissima canzone, Peppe. Riscopriamo un po' le origini roots, le origini del Bomboclat, delle proprie origini. E parlando sempre delle proprie origini, non possiamo parlare di quello che c'è all'interno delle proprie origini. Questa volta parliamo del lato del Black Side of Calabria, cioè delle 'Ndrine, Peppe. Amici, Ciccio. Vabbè, saranno miei amici, saranno fatti miei, però... No, vabbè, alla fine la scoperta dell'acqua calda, le 'Ndrine gestivano l'affare dei rifiuti speciali, anche una nuova... anche una nave affondata in mare, parola di Schiavone. E beh, sono... Affermano cose... Non veritiere, cosa che comunque cioè impensabili, no? Trovare una nave in mare, no? Esatto. Piena di rifiuti poi in Calabria, no? Che c'è, cosa vergognosa. E lo Stato deve essere. Deve vergognare. Cioè, tutti dovrebbero vergognarsi tutti perché si avvelenano persone su persone per specularci su. E ancora il resto della popolazione continua a dormire, pensando che il problema fondamentale siano sempre le 'Ndrine, quando tra Stato e 'Ndrine, Peppe, c'è la stessa cosa. Peppe. C'è collusione. Sì. Collusione è la medesima cosa, Peppe. Cioè. È la stessa faccia, è una diversa faccia della stessa medaglia. Sì, infatti, testo croce. Esatto, puoi scegliere tu questo testo croce, ma alla fine è sempre... Peppe, niente, prima mi è nata la prima farfalla, è sbocciata della crisalide. Vorrei salutare le farfalle, vorrei salutare Carmela che mi ha introdotto comunque a questo tipo di, di allevamento. Ecco chi è la colpevole allora. No, e vorrei salutare anche Peppe che oggi con un gesto quasi spontaneo ha preso le mie crisalidi trovate in un cavolfiore e le ha buttate direttamente alla spazzatura. Allora Ciccio, diciamo le cose come stanno. Allora io stavo pulendo la scrivania, ho trovato una noce. Giusto per ricordare, perché sei l'unico che pulisce in casa. No, non sono l'unico. Comunque ho trovato una noce, un guscio di noce sulla scrivania e dentro c'era la crisalide, come il verme, come in gergo si chiama. Non è un verme, era una... Non un verme. Me ne sono accorto, l'ho buttato alla bruco spazzatura. Prima. Poi siamo andati a ristabilire l'ordine delle cose. Abbiamo ripreso la crisalide da cui è uscita la farfalla. E questa sera la meravigliosa... cioè, meravigliosa. Dai. La farfalla. Sì, una farfalla. Una farfalla è una cosa così spontanea. Come dire, non lo so, quindi una donna che porta un bambino alle grembe per 9 mesi... Non è la stessa cosa, Ciccio. Vabbè, ma... cioè, voglio dire... Comunque... È la metamorfosi, Peppe. Come quella di Ovidio. Ci starebbe la canzone di Marinella in questo caso. Perché? Quella parlava di rose, non di farfalle. Però anche la farfalla viveva solo un giorno. No, non tutte. bisogna vedere del tipo. Però a questa farfallina vorrei dedicare questa bellissima canzone, tratta sempre dai nostri amici del 60, e la canzone dei Bird, gli uccelli, La La La. Domani libereremo la farfalla. Peppe, ci tenevamo a ricordare una cosa in particolare. Ah, esatto, bravo Ciccio. Mi hai ricordato una cosa che avevo detto l'altro giorno, che cosa è successo ieri? Oggi è 11, no, è 12, quindi il 9 era l'anniversario del muro di Berlino, Peppe. Esatto, il muro di Berlino, il muro che divise la Germania, in ovest. Era un muro che circondava la zona ovest, est, quella sovietica. Circondava la zona ovest, Berlino diviso tra le quattro potenze, c'era una parte dell'Unione Sovietica, che era Berlino Est. Il Berlino Ovest, che era divisa in tre tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Questa zona qua, essendo un'enclave del territorio sovietico, era rinchiusa da un muro. Questo muro era stato costruito per evitare che i cittadini di Berlino Est andassero a Berlino Ovest, perché era più occidentale. Quindi meno sovietica. Meno soviet. E cercarono di circoscrivere da dentro la parte di Germania. Però no, dovremmo ricordare che sì, la vittoria del muro di Berlino, la caduta del muro di Berlino, ma nel mondo ancora persistono tantissimi muri, Peppe. Tantissimi muri, Ciccio. Diciamo che i muri sono nati già dall'altro. Ma in Cina c'è la grande muraglia cinese, è stata costruita per evitare che i mongoli sbarcassero in Cina, per difesa. Ricordiamo che ancora nel XXI secolo ci sono dei muri che dividono il Messico e gli Stati Uniti, per evitare che i clandestini messicani illegali vadano dal Messico agli Stati Uniti. Il muro di sabbia che si trova in Marocco, per proteggere le popolazioni residenti a nord ex Sahara spagnolo, controllato dal fronte Polisario. Un muro che tuttora divide Gerusalemme. salutando quella faccia di cazzo di Saviano che dice che Tel Aviv è una città vivibile, perché non va pure lui ogni tanto sotto il muro, Peppe? Ma Saviano è un bel coglione. No, giusto per salutare. Il muro che c'è a Baghdad, che diciamo separa la zona statunitense dal resto dell'Iraq. Il famosissimo muro che divide le due Coree, il 38° parallelo. Peppe. Uno dei più famosi. Corea del Nord, Corea del Sud. Corea del Nord, diciamo, comunista, dove c'è una dittatura, mentre la Corea del Sud è capitalista. Dove c'è quello che porta i capelli, come si chiamava? Alla Cosentina. Alla Cosentina. Ricordiamo il muro che il muro di Ceuta e Melilla nelle enclave spagnole in Nord Africa, in Marocco, sono due città spagnole che sono in territorio marocchino, che sono circondate dal muro. Ricordiamo il muro che esiste ancora nell'Irlanda del Nord, a Belfast, che divide la zona, diciamo, irlandese da quella del Regno Unito. E ricordiamo anche due muri che sono stati abbattuti recentemente. Il muro divideva la città di Nicosia, abbattuto nel 2008 a Cipro, che divideva la zona turca da quella greca, cipriota, quindi. E il muro che in Italia esisteva anche un muro che non tutti conoscono. C'era un muro che divideva la stessa città. La città è Gorizia e Nova Gorica, che in realtà sono la stessa città, soltanto che c'è un confine geografico che le divide. Infatti la gente va a fare la spesa tranquillamente, le strade sono due città attaccate, soltanto che una si chiama Gorizia italiana, l'altra si chiama Nova Gorica in Slovenia. Questo muro è stato abbattuto nel 2004, quando la Slovenia è entrata a far parte dell'Unione Europea. Era un muretto basso, non era come il muro di Berlino, però era sempre un muro che indicava un confine. Beppe, io direi che ogni muro viene costruito per nei confronti di un nemico. Parlando di nemico, parliamo del mio nemico, Peppe. Il tuo nemico, Ciccio? Il mio nemico che attualmente non porta divisa, spero per lui. Ricordiamo, Ciccio, ricordiamo che Clandestino è contro i muri, contro la divisione, contro i confini, per un mondo libero dove la gente può navigare come meglio crede, anche senza navi, senza macchine, però navigano. Quindi, Ciccio, dicevi che Tonino, bella foto. Tonino, facciamo i complimenti a Tonino per la foto fatta con la webcam del computer. Salutiamo Cocozzina che ci ha appena ascoltato. Bella Marinella. E ricordiamo che Tanta Cocozza è il mio nemico. Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro giura che ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene nel carte divisa, quando uccide lui chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene nel carte divisa, quando uccide lui chiede scusa. Se non hai morale e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira, sentendo tira e non sbagliare mira, sparagli piede, sparagli cuore. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora, il potere non lo logora. Il mio nemico mi somiglia, e come me lui ama la famiglia, e per questo figlia più di ciò che dà, e non sbaglierà, ma se sbaglia un altro pagherà. Il potere non lo logora, il potere. Ciccio, il tuo nemico, chi è il tuo nemico? Tu c'hai un nemico? No, soltanto conoscenti e amici. Vabbè, però sì, se dovrei... Cioè, dovresti, come ci collegano dalla regia. Perché non potrei... Non potrei... Non potrei... Non andassi. Allora Peppe, ricordiamo sempre l'appuntamento della settimana, giovedì, no, 12, martedì 12 martedì, novembre, sì, sì. Aula più occupata dalle 18 in poi, sì, domani, lancio del gas del gruppo di acquisto solidale Unica, dalle 18... ci sarà la distribuzione dei prodotti Unica, venite a visitarci perché proprio anche per vedere come funziona. Successivamente ci sarà la presentazione del libro Viaggio Lento, Kant, Punto e Minifrico di Pia Giaccardi, e per finire vabbè, comunque l'istruzione del gas, che cos'è il gas, insieme a Utopie Sorridenti. E a seguire libera jam session di musica popolare. Tu suonerai, Cicci? Sì, penso proprio di farlo, qualche pezzo ho preparato. E sa già il pezzo che suonerai, Cicci, il primo? Non essere così scontato, potrei proprio sorprenderti domani. Diciamo che il pezzo Bella figliola che ti chiami Rosa verrà eseguito. Potrei non farlo, attenzione Peppe, potrei proprio non farlo, data la tua sfattacia. Cid. Ciao Gianni, aggiungi agli Gianni. Amici questa ragazza qua perché si chiama Cid. Denia Cid anche su Clandestino Cid. E passiamo subito al prossimo pezzo. Un pezzo dei Cure. Ci il pezzo dei Cure che Peppe ci tiene tanto, ce lo introduce. Ah vabbè, non introdurrò il prezzo, però il Cure sono uno dei miei gruppi preferiti. No, sto ascoltando, non mi interessa. No vabbè, mi piace nei Cure, Ciccio, però non voglio introdurre il pezzo. C'è un incendio perché... Andiamo con Just Like Heaven dei Cure. Just dell'album like Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Come sei romantico? Non è Kiss Me Licia. Non è un album romantico, però Ciccio. Però è Kiss Me Licia. È un bel album, ascoltalo, lo consiglio ai nostri ascoltatori. E Kiss Me Licia? Kiss Me Licia pure. Vabbè. Cure e Kiss Me Licia. We'll be right back. Finito Ciccio. Salutiamo Marina che è andata via, è andata a dormire, ci ha ricordato di ricordare l'iniziativa di domani, ma noi abbiamo già ampiamente ricordato che domani alle ore 18:30 in aula più occupata con Bo 40 Cicci sarà l'iniziativa del Gas Unical e con il libro di Biagio Accardi, il nostro amico che è stato intervistato qui da noi, che è stato ospite di Clandestino di questa puntata, che ci ha consigliato alcuni pezzi. Domani racconterà la propria storia, il proprio libro Viaggiare Lento, il suo viaggio con il ciuccio sul pollino. Asina Cometina, Cometa Libera, che salutiamo. Si chiama Cometa Libera l'asina? Sì. Che ricordiamo che è un animale bellissimo l'asino, Ciccio. Tu ne vorresti uno nel giardino? Ah, io infatti avevo proposto di portarla, però tipo i tempi erano un po'... Volevi una bagaglia, come si direbbe da me, per dire molto volgare. Beh, non è una volgare, la politica omofoba, omofoba, razzista nei confronti di chi non è, diciamolo tutto, il centro della Calabria, che viene dall'altra parte del mondo. Non è così. Peppe, io l'altro giorno mi chiedevo perché i telegiornali non parlano più della Siria, ne parlano in modo diverso. Perché sono gente diversa venuta dall'estero. E soprattutto perché l'America, cioè, è successo quello che è successo, l'attacco in Siria, subito questo fervore, subito questi terroristi che si sono scoperti così da un giorno all'altro. Bene, grazie a tutte le bombe sganciate, soprattutto ai gas nocivi che sono stati lanciati sui civili, poi alla fine si sa, in una guerra non paga un esercito in particolare, ma pagano i civili, paga il territorio, pagano le genti, tutti gli esseri che vivono quel territorio. Bene, adesso... niente, vorremmo ricordare soltanto una cosa, che i profughi siriani vendono i propri organi per poter attraversare una frontiera, per poter scappare dal proprio paese. E niente, no, Obama era aveva ricevuto il premio Nobel, no? Per... premio Nobile. Nobile, nobile. No, vabbè, alla fine gli organi si possono donare liberamente, tra cuore, rene, pezzi di fegato, testicoli, occhi, no, tanto che cazzo gliene fotte a tutti, papà. Come il sangue, Cicci, doniamo il sangue, certo. Doniamo un organo. Solidarietà al popolo siriano. E dedichiamo il prossimo pezzo. Cicci, un pezzo dei Jefferson Airplane, vuoi mandare? Sì, The Other Side. E io ricordiamo of this life. Volevo dire che io ho visto dal vivo. Anni fa. Non gliene ho fatto un cazzo a nessuno. Sono bravi ancora. Dopo... Ah, per questo, diciamo. No, dopo 40. Ma non si chiamavano più Jess. No, non si chiamano Jefferson Airplane dal 73. Cioè, dopo, quando hanno cambiato la nominazione in Jefferson Starship. E adesso come li troviamo? Jefferson Starship. Peppe, mi stai... Comunque sono, dico, dopo 50 anni ancora sono... se la sentono ancora, diciamo. Andiamo... E sentiamolo, allora, Peppe. Mandiamo un pezzo dei Jefferson. Thank you. Beh, sì, che un dire, applauso Peppe. Finale. È l'applauso finale che va, non so, tutti i nostri ascoltatori. Siamo arrivati alla fine ormai. Ricordiamo nuovamente l'appuntamento di domani, martedì 12 novembre. Che ormai è oggi. Che ormai oggi, alle 6, ore 18, alla più occupata, lancio del GAST, gruppo di acquisto solidale. Niente, invitiamo tutti a non mancare, ringraziando tutti i nostri ascoltatori. Ringrazio anche te, Peppe. Vorrei ringraziare e salutare Andrea Blues, che finalmente dopo 4 puntate è riuscito ad ascoltarci. Finalmente. Viva la tecnologia avanzata. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori della puntata odierna, come Andrea, Tonino, Adele, Rossella, Luca, Marina e tutti gli altri. E tutti gli altri, certo, Mogli, prima che siano venuti. Ringraziamo nuovamente Bia Giaccardi, che troveremo naturalmente domani in aula più occupata. Ci parlerà del suo progetto Viaggio Lento. Tu quando viaggi ci sei veloce o lento? Ma io solitamente mi identifico nel viaggiatore, non nel turista, sempre. Quindi mi piace stare a contatto con le persone del luogo, vivere il luogo. Sì, viaggio in aereo. Viaggi in aereo, cioè, quindi viaggio abbastanza veloce. Quello viaggia col ciuccio, tu viaggi con l'aereo. Diciamo che c'è un po' di... Un po' di? Continuo. Un po' di differenza, un po' di velocità, Ciccio. Vabbè, puntualizzando che il tuo razzismo comunque si... Vabbè, io sono sempre ovviamente razzista in qualsiasi cosa di... Ok, niente, Ciccio, Peppe, un secondo, volevo... salutando San Martino, che ormai è andato via, ci ha accompagnato per questa puntata di Clandestino Cid, il nostro amico Martino, e niente, vi lasciamo con questo pezzo dei Canned Head, che è Peppe? Parliamo di proprio di viaggio in questo pezzo, Ciccio. Di viaggio? Certo. Certo, perché? Going up the country. È un pezzo dei... Risalendo il paese. Ecco, e noi risaliamo il paese. Risaliamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Clandestino Cid, che dovrebbe essere lunedì prossimo, sempre se non ci sono modifiche dell'ultima ora. Martedì, forse martedì, sì. Forse martedì? Sì. Ci spostiamo? Ci spostiamo martedì. Buon ascolto, Peppe. Buon ascolto e buonanotte soprattutto ai nostri fedeli ascoltatori. Un saluto a tutti. Bella Leo. Bella Leo. Salutiamo Leo e San Giovanni, tutta sa. Bella. E Scandal. E Scandal, sì. E tutti quanti gli altri. Ciao, buonanotte.